Io vivo giorni così, io vivo così. You are listening to an F Breezy Entertainment production. Io vivo giorni così, vivo. Vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, descrivo, vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, vivo così, vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, vivo così, vivo giorni così, vivo, ne ho 27, quasi 28, e quando tenti non superi i 20. Con sta faccia da schiaffi e con sta faccia da baci ho raggiunto tanti fini, infine vale più quanto arraffi di quanto perdi e nemmeno a provarci. Fino a quando rimandi, mandi a dire che non puoi quando tu non vuoi, e rimangi tutto quanto quando sei tra noi e te. Altro che un abisso, altro che per a volta loro non li capisco. Ho l'impressione che a volte interferiscano, insistano e si mischino solo quando fallisco. Hai visto dove registro ed episto convinzioni che davate per buone, doppie facce, ve l'ho detto con le buone alla prima, che alla seconda avrei fatto una rima con parolacce. Per i fatti di prima sono diverso da prima, e non mi chiedere il verso, la rotta, la prossima arriva. Fino a quando continua, seguo la linea, sempre quella che mi molla una rima se cambia il clima. Senza contatto con chi ribatto, senza lo scatto come vi batto. Se non attacco, mi attacco al fatto di essere debole, colpevole, inadatto. Bella raga, vado rappando, pensate che rappando mi faccio una paga. Oh raga, non prenote per notti, per sette notti gratis. Rap combo, io scrivo quando soccombo. Racconto storie, racconto le mie, parlo un po' di me, parlo un po' di te, un po' per te. Un quarto sesto senso e tre quarti buon senso. Non capisci cosa? Zero prosa, non mi illumino d'immenso. Tutti vorrebbero un domani sicuro, quanto sudi per il tuo domani, per il futuro, che piani hai? Su, sudi solo dalle mani per tirarti su. Io voglio far tirare sulle mani tra chi ne sa e non si sporge, tra chi non sa e non si accorge che tutto non va. Quando mi chiedono fai rap o rap, e se nel gruppo rap abbino e che Yabin è che fa da DJ. Per i fatti di prima sono diverso da prima, e non mi chiedere il verso, la rotta, la prossima arriva. Fino a quando continua, seguo la linea, sempre quella che mi molla una rima se cambia il clima. Senza contatto con chi ribatto, senza lo scatto come vi batto. Se non attacco, mi attacco al fatto di essere debole, colpevole, inadatto. Io vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, vivo giorni così, io vivo giorni così, vivo giorni così. Per i fatti di prima sono diverso da prima, e non mi chiedere il verso, la rotta, la prossima arriva. Fino a quando continua, seguo la linea, sempre quella che mi molla una rima se cambia il clima. Senza contatto con chi ribatto, senza lo scatto come vi batto. Se non attacco, mi attacco al fatto di essere debole, colpevole, inadatto. Vivo, vivo, vivo.